mio. È la mia crew, baby. È la mia crew. Non è avanguardia. La mia crew, non la vedi, sono tutte cose strane. Non c'è più, non mi credi, sempre sulla strumentale. Dammi 5, chiudo un altro pezzo, dimmi se fa male. La mia crew, chiude pezzi, tipo solo per giocare. In giro con il buio, poi letto con il sole. Domani annuncio questo pezzo pure al professore. È la mia crew che ferma tutto, non fare storie. Prendo il megazord, sulla base pezzi di memoria. È la mia crew, mi voleva ammazzare. Su questo beat, lo racconto, non mi fermo a parlare. Mi porto beat sul mio palco quando parto a cantare. Ti prego, strilla e spacca dalla cassa centrale. Nero! Quando non ero io tornavo a casa affranto. Non sapevo Dio ma avevi dato tanto. Tipo un superpotere, un magnete incontrollabile. Il tuo superpotere ce l'ho uguale anche incontabile. E la mia crew sotto cassa ogni presente. Salta su, entra nel locale, boom, monta prepotente. E la mia crew sempre pronta a sfondare. Che quando arriva in fin di vita prende in mano le spade. È dal silenzio che si forma l'essenza del male. Solo noi bravi ragazzi in testa le carie. E la mia crew c'ha lo stile animale. Nel fosso di Belzebù, col cazzo che ci fermate. È la mia crew, baby. È la mia crew, baby. È la mia crew, baby. È la mia crew, sai che spacca le barre. È la mia crew, baby. È la mia crew, baby. È la mia crew, baby. È la mia crew, sai che spacca le barre. No, no, no, no, no, no, no, fermi tutti. Sopra sti beat con la mia crew spacco tutti. E lascio le macerie a terra come fanno tutti. Per ricordare che qua io cambia tutti i trucchi. E sai, giochi con me su sti BPM. E la mia crew di Acquaio Re guadagna 7 gemme. E giù fino alle 7 guadagno 10 stelle. Per stare giù al quartiere da le 3 stelle. Conosci il posto, sai da dove vengo. Il tuo rap non lo reggo. Bastano 4 quarti con il filo di ferro. E sai, non basta una canzone a raccontarti il peggio. Questa è la mia crew, altro che blocco studentesco. È la mia crew, un'avventura alla Jurassic Park. No, è un po' di più, una censura alla Jurassic Punk. Mi viene da ridere su questi testi. Troppo facile scrivere per questo mostro i denti. Se tacciavano il quartiere per pestarmi, poi dovere. Non sono mai stato il tipo che sta zitto, va a sedere. Sti cazzi dei giganti, qui t'ammazzami pure. Questa è la mia crew che fa paura, Freddy Krueger. Per quanto poi vi ho sopportato, adesso a canna pure. Per la mia crew che mi supporta pure senza voce. E anche se sto al buio senza luce, so che la mia crew porta un lanciafiamme, mica un solo lume. È la mia crew, baby. È la mia crew, baby. È la mia crew, baby. È la mia crew, sai che spacca le barre. È la mia crew, baby. È la mia crew, baby. È la mia crew, baby. È la mia crew, sai che spacca le barre. Neo!